Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Fa sempre impressione questo squarcio di umanità anche nei palazzi che la leggenda vuole freddi algidi. Mentre si lavora, oddio, è morto Matteoli. Prendersela con una bara, io lo trovo eccessivo. Com'è stata diciamo quell'ultima telefonata? Ma guardi, una delle solite che ci facciamo tra di noi, un po' addetti ai lavori, ma anche amici. Questa è l'ironia della sorte. È come succede a tanti commercianti, a tanti piccoli imprenditori che rischiano anche con il proprio iniziale capitale. Grazie ad Alessandra, una testimonianza grazie, importante, Luca, anticasta. Resistere. Sembra uno che vuole salvare il Titanic con l'accetta cercando di fare un buco nello scafo. Sei sotto una termocoperta o sei già vaghi per la casa con la tazzina di caffè in mano? No, io sto già vagando, ho fatto colazione, sono in forma perfetta, pronto a farti da spalla. Sento tonico, freddo e determinato. Bravo. Io come Spelacchio sono destinato a morire. Dare la cittadinanza a 800.000 bambini che nascono in Italia da genitori stranieri regolarmente residenti in Italia da molti anni è un atto di civiltà. Cari ascoltatori, vedremo. Molto superiore. Siamo affidabili, siamo dei bravi ragazzi. Eccomi qua, fratello, questo continua a dire call fail. Dio mio, non lo dire neanche per scherzo. Trovare delle soluzioni alle matasse ingarbugliate. Ecco, Altero era uno che, da questo punto di vista, era uno che sbrogliava le matasse. Questo non fa... Gli sbrogliatori di matasse è un bel epitaffio. La reputazione, come dicevo ieri ad alcuni amici, contattiti una sentenza ingiusta. Reach out and touch me. Popolo dei Giasvegli, buongiorno, 6:31 minuti, un pugno di secondi, Luca Sappino, Fulvio Benelli, Valerio Rocchetti, Alessandro Chiappini, Rachele Caraccio e Lorenzo Rotella vi danno il benvenuto in questa nuova mattinata di informazione. Buongiorno, e al mio fianco per commentare le notizie di questa giornata c'è lui, il comandante, Alberto Castelbetti. Buongiorno, ben svegliati. Allora, tante cose da discutere, ma una che sicuramente fa notizia e un po' pone le domande, cioè l'addio telefonato, l'addio predatato, come un assegno, come una cambiale. Virginia Raggi dice: non mi ricandido, è già tanto se arrivo viva. Si potrà ricandidare o... Beh, in base alla regola dei due mandati direi di no. Il dibattito sul secondo mandato che coinvolge... La regola è chiara e insomma ce la siamo data, mi sembra... Siamo al secondo anno. Tanto io direi che arrivare viva alla fine di questo mandato sarà un grandissimo successo. È un, come dire, un momento simpatia, ce lo chiediamo sempre un po' in queste settimane, di fronte a queste uscite. Era studiato per dare... come dire, un tocco di ironia, di autoironia, oppure proprio le è sfuggito, oddio, se arrivo viva è già tanto. Ma guarda, di solito io dico, a me la Raggi non piace, non è mai piaciuta, non piace a me, non piace anche a molte persone che l'hanno votata. In questo caso ha detto due cose che sono tutto sommato... Ah, innanzitutto una cosa, è la prima regola che i grillini si danno e che poi rispettano, perché lei ti ricordi che diceva, se ricevessi un avviso di garanzia mi dimetterei, se veniamo rinviati a giudizio ce ne andiamo, invece non le ha mai rispettate. Questa del secondo mandato è una regola che a quanto pare le intende rispettare. Poi la uscita di sen fuggita da questa battuta, arrivare viva alla fine, e mi sembra che sia una fotografia spelacchiosa della sua, del suo mandato, abbastanza... È la prima volta che sento Virginia Raggi parlare con obiettività di se stessa, cioè è già tanto se ci arrivo in sella a questa... Sì, secondo me è un grande momento di sincerità. Un momento di autocritica, ecco, la trovo, tutto sommato, è la prima volta che mi fa simpatia, guarda. E guardate Di Maio, che anche lui interviene... Se dovesse partire un governo e cadere dopo poco, quello è il mio secondo mandato. Noi abbiamo detto, ti fai due mandati e poi torni alla tua vita personale, se ce l'avevi, se no te la costruisci come tutti i cittadini italiani che provano a sbarcare il lunario ogni giorno facendo sacrifici. Era l'aria che tira, qui i mandati sono due, Di Maio non molla. No, e d'altro canto dice la vita personale se ce l'avevi. In effetti, come dice il presidente Berlusconi, molti grillini non ce l'avevano neanche una vita personale prima di candidarsi per un primo mandato. Sembra anche questa una specie di ammissione. Cioè, ti abbiamo già miracolato con un primo mandato, tu che vieni dal nulla, tornerai alla tua vita personale per fartene finalmente una. Finalmente, come si diceva, andate a lavorare. Anti-grilline. In realtà qua è la sincerità, la freschezza, la non ipocrisia di chi dice se ce l'avevi, se no no. Ma infatti c'è già chi dice che Di Battista non si è candidato adesso, non vuole candidarsi proprio per non bruciarsi, per appunto. Per il giro buono. Certo, perché questo qui è il giro scamuffo, è il giro loffio. Gentiloni, presto, sentite, udite, udite, tornerò a giocare a tennis! Giocavo moderatamente a tennis. A tennis? Moderatamente, ma riprenderò presto. E questa che cos'è? Questa è la battuta un po' del vecchio democristiano. Sì, sì, sì, sì. Io le adoro le battute di Gentiloni. Mano di acciaio in guanto di velluto, come si dice nell'antico gergo cavalleresco. Understatement totale. E lo ha definito il Foglio, mi pare, due giorni fa, il nostro uomo dell'anno. Mi pare che c'è stata questa. Sì, sì. Man of the year. E in effetti Gentiloni segna proprio, come dire, il volto civile per bene di questa legislatura, che invece si conclude tra schizzi di fango, banche etrurie, audizioni, eccetera. Allora, eccetera. In questo sconquasso di gente che viene e gente che va, qualcuno se ne va davvero. Elio e le storie tese. Non capisco tutto questo fermento per la dichiarazione di scioglimento. Per esempio, non so, il permafrost si sta sciogliendo anche lui. È molto più preoccupante dello scioglimento delle storie tese. Non fa conferenze stampa, non rilascia interviste. Adesso non ho mica capito perché bisogna mettere su tutto sto stuà, che sei milanese, per uno scioglimento della band. Elio e le storie tese si sciolgono come il permafrost. Soprattutto perché la cosa incredibile di Elio e Storitese è che sono dei musicisti straordinariamente preparati, cioè niente eguaglia sul palco, se tu li hai mai sentiti suonare dal vivo? No. Niente eguaglia sul palco il loro sound, cioè dei professori d'orchestra, quindi l'idea che si sciolgano, come dire la Berliner Philharmonica si scioglie, capisci? Sono di là da Elio, l'insieme, Rocco Tanica, no? Il suo tastierista, è un insieme di persone che difficilmente sarà facile ritrovare. Auguri per le loro carriere soliste, ma io credo già nella reunion. Io sono già pronto. Torneranno, per la... sì, perché questa è la grande domanda. Allora, battuta di Gene Gnocchi, perfida, lui non si scioglie. Ce l'hanno tutti con Renzi, cioè, adesso è diventato un tiro al piccione, qualunque cosa succede è colpa di Renzi. Ieri mi si è rotto il freezer, è uscita tutta l'acqua, è arrivata mia moglie, ha urlato: che disastro l'Italia di Renzi. Ma dico, ma no, cioè, sarà mica colpa lui anche questo. Scusa, ce l'hanno tutti con Renzi. Pier Giorgio Di Freddi, matematico, ha dichiarato che Renzi non solo è divisivo, ma che è divisivo per 2, per 4, per 8, per 32. Renzi è divisivo e diviso, perfino Matteo Richetti, il responsabile comunicazione del PD, non so se hai visto, l'ha attaccato recentemente. È sui giornali di oggi, perché dice non manteniamo le promesse, le parole date, questo. No, Renzi è divisivo danneggia. Nel senso che ha detto che si vuole candidare simultaneamente a Prato, ad Arezzo, a Firenze e a Milano. E Matteo Richetti ha detto: decidi tu dove ti vuoi candidare, altrimenti sarai spezzettato su vari collegi. Manteniamo la parola una volta. Allora, arriviamo al nodo della giornata, questa famosa sibillina frase che per alcuni segna una tregua nel conflitto istituzionale fra Banca Italia e i leader del PD, per altri invece è proprio una staffilata. Ecco cosa ha detto però Visco in commissione banche. Con il presidente Renzi siamo visti moltissime volte. Su Etruria, diciamo, la mia livello di attenzione era modesto. Fui colpito quando ebbi un incontro con il presidente del Consiglio, una richiesta di informazioni. Io dissi: caro presidente, delle banche in difficoltà e della vigilanza, io parlo col ministro. Però devo dire, pressioni no. Allora, è un colpo a bottino al cerchio? È una tregua vera? È una stoccata? Ma guarda, io farò un nome che ai microfoni del 24 era un po' così irrituale. Luigi Bisignani, il lobbista che tutto sa e tutto conosce, mi pare qualche giorno fa in una di quelle riunioni sul Tempo, ha detto: sì, Matteo Renzi ha fatto un solo sbaglio, ha attaccato tra tanti poteri forti il potere forte sbagliato. Il potere forte, quando risponde, e Ignazio Visco ne è in questo modo, risponde con questi messaggi sibillini. Cioè, pensa a un presidente del Consiglio che viene amorevolmente sputtanato in questo modo, Caro Presidente del Consiglio, io con te non parlo di banche, parlo con Padoan, che è l'unico che riconosco come rappresentante dei poteri forti. Cioè, Padoan è uno che viene dalle organizzazioni internazionali, dal Fondo Monetario. Dice, però lui intendeva forse anche il Tesoro, perché è competente in materia, o no? Sì, ma tu ti rendi conto, dire a un Presidente del Consiglio con te non parlo, parlo col tuo Ministro? Sì, e chiaramente certo. È il fatto di dire manco ti rispondo. A Roma si direbbe a Rigazzi. Però gioisce per queste parole Orfini, commissario del PD. Tanto io ho apprezzato la grande disponibilità e onestà intellettuale del governatore, che ha riconosciuto alcune mancanze di Banca d'Italia. Spero che questa cosa faccia definitivamente giustizia di tante strumentalizzazioni che ci sono state e ci consenta di affrontare anche mediaticamente quello che davvero sta emergendo in questa commissione, che credo sia utile per tutti. Se è vero quello che tu dici, però Orfini tende la mano. Perché Orfini ha capito che a questo punto quella del PD non è più una corazzata, è un peschereccio mezzo sgangherato, e che andare a sfracellarsi sugli scogli del potere forte di Banca Italia non conviene, per cui con questo tono un po' da dottor sottile di Matteo Renzi, l'altro Matteo del PD dice: apprezzo l'onestà intellettuale del governatore Visco, quando fino a pochi giorni fa Matteo Orfini era il più feroce, tutti ricordi, no? Era quello che disse: finalmente abbiamo la dimostrazione che la colpa è della Banca d'Italia, che non ha vigilato. Ecco, pure Matteo Orfini in questo momento apprezza l'onestà intellettuale di Visco. È una notizia. Salvini su Visco, per avere tutti i pareri, L'ho sentito, no, gli ho mandato l'SMS io, no, me l'ha mandato lui. Mi ha parlato di Etruria, no, me ne ha parlato lui. Caccia al colpevole ormai mi interessa poco, perché al governo voglio trovare i soldi da restituire ai migliaia di risparmiatori azzerati. Quei soldi ci sono a Bruxelles. Ripeto, fossi in Visco quanto nella Boschi, quanto in Renzi, farei un passo indietro, invece sono ancora bellamente lì. E Salvini sembra che ce l'abbia sia con Banca d'Italia che con il governo. Ma Salvini dice una cosa che è abbastanza giusta, cioè che la prima vittima di tutto questo pasticcio sono stati i consumatori. Io consiglio a chi ci ascolta di leggersi in questo periodo natalizio il libro dell'ex direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che di fatto su questa vicenda delle banche racconta molte cose, molti retroscena. Cioè, le banche in quei giorni là di cui si parla, Matteo Renzi, Ignazio Visco, eccetera, eccetera, erano veramente con il fiato corto e facevano fatica a finanziarsi, e purtroppo chi ci è andato di mezzo sono stati i consumatori. Questa purtroppo è la verità storica che ci troviamo oggi sul piatto, in mezzo a questo piatto avvelenato, che sono le audizioni in commissione d'inchiesta. E allora passiamo dalla battaglia in commissione al grande simbolo che abbiamo raccontato qui, che sui giornali è diventato oggetto di dibattito, però ieri si è creata una rottura, una frattura, un punto di non ritorno. Che è successo? Spelacchio è morto. Avete intese con Di Maio, Movimento 5 Stelle? No, cambiano idea troppo spesso per i miei gusti. E soprattutto governano Roma, quindi io un governo Spelacchio onestamente non sono in grado di sostenerlo. Spelacchio non si ricandida. Spelacchio. No, c'è stato veramente il Codacons. Il Codacons sta chiedendo conto, ci saranno probabilmente conseguenze giudiziarie. Spelacchio, di fatto, tu sai che è stato trasportato e insediato, e probabilmente era già moribondo. Ecco, il testamento biologico per Spelacchio non lo invoca nessuno. Cioè, come fai a insediare un albero al centro di Roma che è già moribondo? Ecco, questo è un tema che vorrei sottoporre. E su questo è intervenuto, anche su questo tema di Spelacchio, anche la Meloni. Hanno speso 48.000 euro per ammazzare il povero Spelacchio, l'omicidio più costoso della storia. Neanche un albero di Natale sanno fare, figuriamoci un po'. Come cioè, la Raggi ha detto che non si ricandidano, ma tanto non te rieleggevano, pure che te ricandidi oppure no, cambia poco. Allora, Gabriele Crimeni, chiaramente un nostro ascoltatore, interattore, fan dei 5 Stelle, dice: buongiorno Luca, dica al suo cortese ospite che il Movimento 5 Stelle arriverà al governo, se ne faccia una ragione. Chi è? Piglia e porta a casa. Sì, di fatto Di Maio anche in Sicilia diceva: noi governeremo la Sicilia, poi governeremo l'Italia, e io già sentivo: e poi governeremo il mondo, no? Nella mania di grandezza. Bisogna non solo avere i voti per governare, ma avere le coalizioni nell'Italia di oggi, per cui tu puoi essere anche il primo partito, ma per governare ci vuole qualche cosa di più. Certo, su questa cosa degli Spelacchi, di Virginia Raggi, di Matteo Renzi, ti voglio far fare una riflessione, Luca, tu che sei un osservatore attento. Tutti questi sono politici giovani, sono arrivati, sono in qualche modo i rottamatori Che cosa succede se tu non ti ricandidi o sei in disgrazia a 40 anni? Perché se ce n'hai 65 puoi sempre dire sono arrivato per fine mandato per anzianità. Ma che ne faremo di tutti questi politici però giovani che non si ricandidano, che tornano alla vita di cincinnato, che capisci, finché torna a giocare a tennis Gentiloni. Gentiloni è un signore che ha fatto i suoi anni e non ci credo, perché Gentiloni, ma se fosse così, e questo è il lato pregevole, cioè che succede se si non hanno paura di restare senza, come si fa a rottamare, la droga della a rottamare politica? Una macchina che c'ha un anno di vita, come dire, ancora nuova, funziona ancora tutto, come dirti, è un bel problema. Allora Esposito attacca Di Maio a proposito di rottamazione. Di Maio non può reggere nessun confronto. Secondo me è un pirla incompetente, ma pirla con la logica dell'affetto con cui viene utilizzato a Milano dalle parti di Torino. Uno che si candida a fare presidente del Consiglio, la spara grossa e quando viene beccato con le mani nella marmellata dice ma non mi avete capito, non mi sono spiegato. Allora, deputato del Partito Democratico, piemontese, Esposito, usa sempre questa figurazione, pirla nel senso affettuoso. Sì, no, ma di fatto quello che è curioso però è che questa predicazione tu la togli anche da Di Maio. Anche tu, Castelvecchio, sei un pirla, però nel senso nel bello. Senso affettuoso, sei uno stronzo, ma ti voglio bene. No? La cosa curiosa è che questo tipo diventi presidente del Consiglio, fai la spari grossa e poi dici non era colpa mia, potrebbe essere applicabile a Renzi, a quello, come dire, toccherà anche a Di Maio. Cioè di fatto mi sembra che la dichiarazione di inconsistenza, stiamo ben attenti perché, e di fatto a me Di Maio, anche lui mi sembra un po' inconsistentino da un punto di vista della preparazione. E intanto però è tosto. Intanto però come comunicatore funziona. Ha replicato Esposito. Io non replico neanche alle offese, poi se dobbiamo arrivare a questo è chiaro che c'è una certa paura nello schieramento del Partito Democratico che comincia addirittura ad offendere con parole del genere. E allora ci fermiamo solo un attimo per il traffico e torniamo con i Già Svegli e con Alberto Castelvecchi a fra poco. Ma santo cielo, ma non avete niente di meglio da parlare? Mattino. I Già Svegli. Sono già sveglio per sentire le cazzate di Salvini, che spesso spara cose stupide. E io non ho voce, voi ce l'avete, vi pregherei di dirgli che le prime persone che hanno incominciato a parlare della pensione a 65 anni era il governo Berlusconi nel 94. Vorrei mandare un colpo alla Fornero in diretta, grazie Luca, ciao. Vittorio Emanuele III ha governato sì con Mussolini, ma sulla spinta, sai, dei cittadini. Però vergogna fu quella pattuglia che con Badoglio lo nascose in Puglia. Ciao, né, da Felice Pautasso. Salve, Marco Martini, Firenze. Mi sono svegliato stamattina e mi sono ricordato che quando lavoravo in uno studio professionale c'era un cartello in cui c'era scritto: prima di aprire bocca, accertarsi che il cervello sia inserito. E questo mi ha dato da pensare per tanti anni. E accertiamocelo tutti quanti, se il nostro cervello si è inserito, soprattutto a quest'ora. 02 30 22 44 92, raccontate le vostre mattine, i vostri cervelli, le vostre passioni e soprattutto finalmente oggi posso gioire per questa rivelazione. Il nostro rimatore della mattina si è firmato Ciao Ne, ed è il dottor Pautasso, piemontese. Pautasso. Filosofo. Ogni mattina ci manda una rima. E Puglia, ma non è bellissimo? Puglia fa rima con pattuglia e Spelacchio fa rima con cacchio. Non so, no, vabbè, troviamo, vabbè. Una rima, ma ci mandi ma una rima puoi su Spelacchio. Competere. Io parlo del professor Pautasso. Tu mi tiri fuori queste rimette minori. Allora, è invece una storia molto dolorosa, quello di Rosa Calvi, che racconta le molestie subite da Bellomo. Sapete che è il caso di cui si parla molto in queste ore. Le studentesse dei corsi molestate dal consigliere di Stato che avrebbe dovuto prepararle all'abilitazione professionale. Le molestie raccontate da Gorà. Mi fu chiesto da Francesco Bellomo di parlare di me. Quando ho cominciato a parlare del mio percorso di studi, fu interrotta e mi disse: io voglio sapere quanti fidanzati hai avuto, le tue esperienze e particolari della mia vita privata. E fu in quel momento che mi disse che in ogni caso se fossi diventata borsista avrei dovuto perdere 5 kg. E poi è stato in quel momento che, parlando nelle mie occhiaie, mi si è avvicinato e mi ha poggiato le sue labbra sulle mie e, rendendosi conto della mia reazione, mi disse: guarda che quello era solo un bacio di affetto, perché io non do baci sulle guance. Ma è incredibile questa storia, veramente. La cosa interessante è che abbiamo scoperto che Bellomo è un magistrato russo, perché come sai i russi si baciano, nella religione ortodossa ci si bacia per affetto, sì. anche tra leader. Cioè, la cosa il famoso che, bacio Necker-Brezhnev. Io vorrei fare una riflessione, perché se ne sta parlando nelle alte magistrature dello Stato in questo periodo. Il problema è, poi, se questo signore è veramente colpevole o no, ce lo diranno i suoi colleghi magistrati. Il problema è, se tu hai un posto di consigliere di Stato, se è giusto che tu gestisca una scuola privata che prepara alle magistrature pubbliche. Cioè, già c'è un conflitto di interesse. È questo il tema che a me sembra. Poi, di là dal fatto che obiettivamente molti dei comportamenti che abbiamo letto di questo signore ci sembrano obiettivamente spregevoli, ma purtroppo comuni un po' in tutti gli ambienti, no? Nel senso che abbiamo visto adesso si stanno scoperchiando. Molto triste. Se fosse questa la pratica che uno va a fare prepararsi a un concorso e deve subire delle avance di questo tipo. No, perché sai, tante volte capita di dire: guarda, se tu vuoi avere un'immagine pubblica ti consiglio di, non so, migliora la tua immagine, però dopo io non so, non ti bacerei in bocca. Ma non ti chiedo quali sono i fidanzati. E non ti chiedo, appunto, e soprattutto non ti bacio delle due l'una e tutte e due male insieme. È una triste, triste vicenda che si aggiunge alle altre che abbiamo già visto in questi mesi. Allora, nel dibattito sui Savoia riciccia e rimbalza sui social come se fosse nuova, questo è un fenomeno interessante. Un'intervista del 97 a Vittorio Emanuele, padre di Emanuele Filiberto, in cui lui non si scusava sulle leggi razziali. Non vedo perché dovrei fare un atto di scusa. Quelle leggi sono state atroci, infami. Sì, ma io non ero neanche nato. Il casato con quelle leggi, no, non sono così terribili. Incredibile, e questo è un gioco della rete che è diacronica, cioè in qualunque momento una cosa di repertorio, che noi consideremmo repertorio, può diventare nuova, attuale, sì. Perché il gusto della rete la seleziona e la ritiene opportuna. Ma poi, è un blob contemporaneo. Giustamente lui dice: io a titolo individuale non devo scusarmi, e però quando in qualche modo voi rivendicate per ragioni di casato che rientrino le spoglie del sovrano eccetera eccetera, allora per ragioni di casato dovreste anche riflettere voi come Savoia Che eredità ci avete lasciato. Vi dovete caricare il casato. Cioè, abbiamo cominciato con le leggi razziali e siamo finiti a ballando sotto le stelle, come dire, no? Cioè siamo quindi no, nel senso che, come dici, è un decalage progressivo, no? Povero Emanuele Filiberto, passando per le fucilate sparate dagli yacht in Sardegna eccetera eccetera. Cioè, obiettivamente c'è un decalage, almeno il Vittorio Emanuele, quello che è rientrato adesso, è stato tumulato, qualche cosa di grosso l'ha fatta, almeno l'ha fatta grossa, come dire, no? Bisognerebbe affidare alla storia queste riflessioni, diciamo, Accossito, frazione del borgo di Amatrice distrutto dal terremoto del 24 agosto, si vive ancora, caro Alberto, nei prefabbricati. 8 metri quadri di lamiera, se fa freddo le pareti si gelano e se nevica bisogna dare spallate alla porta per riuscire ad aprirla. Qui siamo noi gli scordati, dice Giovanni Nibbi ad Huffington Post. Veramente triste, ma non è triste il terremoto, una settimana è passato, è finito, è la burocrazia, non puoi passare, la strada è chiusa, quell'altro è chiuso, lì non si può fare quello, non si può fare niente, non si può fare niente. Farete la notte di Natale? Quello fanno un'altra notte, dormiamo, tanto è una notte come altra, eh. Non è che viene qualcuno a chiedere se ci serve qualcosa, perché qui noi siamo gli scordati. Gli scordati potrebbe essere un titolo per un bel romanzo, sì. E questi scordati, guarda, io mi è capitato due o tre volte. Ignazio Visco, di cui si parla in queste ore per motivi di audizione eccetera eccetera, ha detto una cosa bellissima quest'estate al Festival di Comunione e Liberazione a Rimini: la vera grande opera pubblica italiana sarebbe ricostruire alla svelta e mettere soprattutto in sicurezza sismica il territorio. Che lo debba dire un governatore di Banca d'Italia mi sembra veramente triste, mentre tutti gli altri, cioè i politici, come hai visto, no? Nel mese successivo al terremoto si fanno vedere che visitano, cosano, abbracciano, baciano. Berlusconi addirittura all'Aquila fece una specie di laboratorio odontoiatrico per rifare le dentiere agli anziani, cioè tutta una serie, il politico che arriva e fa il re guaritore, no? Non vi preoccupate, ci sono io. E poi esistono gli scordati, cioè le ricostruzioni lente che ci mettono anni a partire. Bello, è un romanzo da scrivere. Il Natale è duro anche perché scrive lettere amarissime, come uno di coloro che ha perso il lavoro per la chiusura dei 3 punti vendita di Troni. Sentiamo. Sarà un Natale sicuramente non come tutti gli altri. La notizia ci è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Siamo 41 persone all'interno di questa struttura, abbiamo ognuno di noi famiglia con dei figli. La possiamo definire la letterina di Babbo Natale, a noi è arrivata al contrario. Brutto, arriva la notizia di una chiusura, di un fallimento così a ridosso delle feste, è durissimo. Anche loro sono scordati. Anche qui riflessione generale, non dimentichiamo che per quanto la ripresa venga annunciata, in certi casi anche strombazzata a tutti i livelli, l'onda lunga delle chiusure, delle aziende che hanno fallito, degli imprenditori che si sono trovati in mezzo alla strada e dei loro dipendenti soprattutto in mezzo alla strada, continuerà per un po'. L'onda lunga della crisi. Noi annunciamo la ripresa e tac, in Italia va tutto bene. Questa voce mi sembra testimoniarlo. Per tanti che si lamentano, l'avvocato di Corona evoca l'accanimento fiscale contro il suo cliente. Corona, il noto evasore, anziché avere preso i soldi che aveva guadagnato e farli fatti sparire, li ha tenuti lì e ci ha pagato le tasse 3 volte. Gli vogliono portare via la casa e come risposta ti dice: ho un debito personale, pago anche quello. Però basta. Il professor Perini è venuto l'altra volta e ha detto quanto era il suo debito fiscale, ma ha anche detto su questo debito fiscale ci sono interessi per 5 milioni di euro. Uno Stato che chiede 5 milioni di euro di tasse a me fa paura. Che dici? Ma dunque, glieli hanno trovati in un soffitto nascosti, sì, i soldi, sì. Che dice li tengo lì sotto gli occhi di tutti, erano una specie di soppalco nascosti. Bisogna controllare i soppalchi. Obiettivamente, su Corona è stato molto autolesionista, ha fatto molto il suo male, ha fatto una quantità di casini, un po' di accanimento c'è, un po' c'è, diciamolo. Bene, i soppalchi di Natale sono il tema di ora, ci fermiamo per ancora una pausa per il giornale radio e poi torniamo con la rassegna stampa. Ciao Alberto Castelvecchi. Arrivederci.